Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi ancora una puntata che ci proietta nel futuro. Torniamo in Cina, uno dei paesi su cui abbiamo maggiormente concentrato l'attenzione in questo 2011. Parleremo di marketing, uno dei settori più ambiti dai giovani professionisti italiani, e delle opportunità per loro in Estremo Oriente. La domanda che farà da sfondo a questa puntata è: c'è spazio in Italia per i giovani creativi e liberi pensatori che amano ragionare out of the box? Andremo anche in Valle d'Aosta per parlarvi di un programma regionale dedicato agli scambi lavorativi con l'estero. Ma torniamo alla storia della settimana. Penso che il mercato lavoro in generale sia purtroppo spesso caratterizzato da gerontocrazia e raccomandati. Quindi qualcosa di sbagliato forse c'è. Mattia Salorieri, 30 anni, è marketing manager presso l'azienda Far East Consortium International. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Volevo soltanto ringraziare e salutare tutte le persone che stanno festeggiando per il loro lavoro, cioè tutti gli italiani che se ne sono andati dall'Italia e hanno trovato un posto di lavoro. Pensate, c'è gente che se n'è andata in Inghilterra, gente che se n'è andata in Francia, io ho amici che sono andati in Germania. Il lavoro, la disoccupazione giovanile, ma anche la fuga dei cervelli al centro, come state ascoltando della recente celebrazione del 1° maggio. Oggi però iniziamo con le parole del nuovo presidente dei giovani imprenditori. Un paese che non si occupa dei giovani si condanna alla fine. Così il 35enne Jacopo Morelli, sentiamo. Noi dobbiamo smetterla, attraverso politiche miopi, di rottamare una generazione intera. Il paese sta rischiando di rottamare una generazione di giovani e di sacrificare spesso sull'altare dei diritti acquisiti, diritti di chi ancora, cioè i giovani, magari non li ha maturati né maturerà mai. Ed è più giovane e istruito rispetto al passato il neoimprenditore protagonista della nascita di aziende nel 2010. A meno di 40 anni, segnala Unioncamere, nel 45% dei casi è diplomato o laureato, una neoimpresa su 4 ha come fondatore un under 30. Italia sempre al top in Europa per la disoccupazione giovanile, a marzo è salita al 28,6%, lo comunica l'Istat, peggio di noi solo Spagna, Slovacchia e Irlanda. Sempre per l'Istat, dallo scoppio della crisi è aumentata l'età media dei lavoratori con un crollo dell'occupazione giovanile, 235.000 occupati in meno tra i 15 e i 24 anni, quasi 620.000 in meno tra i 25 e i 34. Cresce il numero degli scoraggiati, oltre 1,5 milioni. Indubbiamente allarmano i dati relativi ai giovani, soprattutto il dato dei quasi 2 milioni di giovani fuori da ogni tipo di occupazione, dal ciclo educativo e non coinvolti in attività di formazione, così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La mobilità di reddito intergenerazionale, ovvero la possibilità per i giovani di migliorare il proprio status socio-economico rispetto a quello della famiglia di provenienza, resta bassa in numerosi paesi, tra cui l'Italia, e genera diseguaglianze di opportunità, lo afferma l'OCSE. Con il passare delle generazioni a Milano si entra nel mondo del lavoro con quasi 3 anni di ritardo, l'età media è ormai di 21 anni e mezzo. Sempre nel capoluogo meneghino non si diventa pienamente autonomi se non a 30 anni, lo rileva la Camera di Commercio, che sottolinea come Milano presenti standard inferiori alla media europea. Ed è in calendario oggi a Milano Fai sfilare la tua idea, dalle proteste alle proposte dell'associazione Under 35 Italia Camp, ed è in programma sempre nel capoluogo lombardo, ma il 13 e 14 maggio, la nuova edizione della Brain Calling Fair, nata per mettere in contatto giovani dalle idee innovative e le aziende, evitando la fuga dei talenti. Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce. Quest'anno Brain Calling Fair è ancora più ricca perché le aziende hanno ricevuto molti più progetti. Quante aziende saranno presenti? 9 aziende presenti, alcune di queste hanno lasciato open project, quindi si possono mandare tutte le intuizioni, i progetti che uno ha in mente. Altre, tipo Martini per citare un esempio, ha chiesto un progetto sul consumo responsabile degli alcolici, quindi ci sono anche dei progetti tematici. Quanti progetti già pervenuti? Oltre 300 progetti pervenuti e oltre 2000 partecipanti registrati, che quindi confluiranno a Brain Calling Fair a Palazzo delle Stelline. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore associato marketing e comunicazione ad Habitat for Humanity International, sede di Bratislava, scadenza per il CV 10 maggio, info su habitateurope.org. Un funzionario legale alla European Financial Stability Facility a Lussemburgo, scadenza per il CV 15 maggio, info su ifsf.europa.eu. E infine l'Università di York in Gran Bretagna cerca professori e ricercatori per il Dipartimento di Economia, scadenza per il CV 24 maggio, info su york.ac.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta ancora una volta a Shanghai, Cina. Nome: Mattia. Cognome: Lorieri. Età: 30 anni. Città di origine: Treviso. Studi: laurea in economia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Gran Bretagna. Perché? studi e opportunità di lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Marketing manager. Dove? Shanghai, Cina. Tornerai? Per il momento no. Atmosfere cinesi per introdurre la storia di Mattias Lorieri oggi. Sono stati i menefreghismi e la sostanziale mancanza di supporto e rispetto nei miei confronti che mi hanno spinto a lasciare l'Italia. Il nostro paese deve imparare a valorizzare le proprie risorse intellettuali. Che senso ha avere tutti questi talenti se poi le doti e le capacità eccezionali di queste persone vengono sfruttate da aziende e ricerca universitarie in Europa o Stati Uniti? Così scrivi Mattias a giovanitalenti@radio24.it. Ti ribalto la domanda e scusa l'approccio un po' disilluso, ma non è che in realtà a questa Italia ostaggio di quella che definisce una classe dirigente di vecchietti e raccomandati conviene spedirvi all'estero per non avere concorrenti pericolosi tra i piedi? Direi che sono d'accordo. Secondo me sono proprio questi anziani che, pur di conservare e mantenere i propri poteri, chiudono comunque le porte a qualsiasi elemento che possa, insomma, mettere in discussione la loro posizione. Infine, secondo me non fa nient'altro che prendere in giro la nostra gioventù. Insomma, invece di lavorare al rinnovamento della politica industriale e del mercato del lavoro, sviluppano strategie per piuttosto, insomma, bloccare l'innovazione, bloccare l'ingresso di giovani capaci di innovare, quasi avessero paura, insomma. Non hai peli sulla lingua, Mattias. A differenza delle altre storie che normalmente raccontiamo, la tua inizia con un espatrio già in tenera età. Quanti anni avevi quando hai lasciato l'Italia e dove sei andato? Io avevo intorno ai 2 anni quando lasciai l'Italia con i miei genitori, che andarono in Germania per lavorare nel settore gastronomico. A 17 anni però tu sei rientrato in Italia, era il 1998, e il benvenuto che però ti ha riservato il tuo paese d'origine è stato davvero speciale. Tu arrivi a definirlo un calcio in faccia. Ci racconti cosa è accaduto? L'autorità consolare tedesca dichiarò che il mio titolo di studio era equivalente alla seconda superiore italiana con media uguale all'8, mentre il provveditorato agli studi mi disse che il titolo tedesco era equivalente alla licenza media italiana con una votazione sufficiente, quindi dovetti ripetere il primo e secondo anno del liceo. Ti hanno tolto 2 anni. Tu ci hai scritto: la sostanziale incompetenza dimostrata nel processo di equiparazione del titolo di studio mi diede l'impressione di istituzioni che, senza dubbio, sembrano fregarsene dei giovani. In Italia, secondo te, prevale più l'incompetenza oppure il disinteresse verso le nuove generazioni? Io direi che c'è sia disinteresse verso nuove generazioni sia incompetenza. In Germania o nel Regno Unito, nonostante fossi straniero, mi sentivo comunque più valorizzato, e in quei paesi le istituzioni cercano comunque sempre di tutelare soprattutto i giovani, in particolare per quanto riguarda il mondo universitario o scolastico. Che paradosso, tu comunque, nonostante i ritardi imposti dalla burocrazia italiana, ti diplomi come miglior studente del tuo anno e con il massimo dei voti. A quel punto ti iscrivi alla facoltà di economia a Bolzano. Come mai questa scelta? Avendo un forte interesse nell'area delle scienze sociali e della strategia aziendale, volevo frequentare un'università che sia al top per quanto riguarda queste aree disciplinari, ma che avesse anche un flair internazionale. Durante gli anni universitari, tra l'altro, completi uno scambio culturale in California, esegui vari tirocini negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, resti impressionato, ci scrivi, dalle infinite opportunità nell'aria. E poi, ovviamente, ti laurei a Bolzano. A distanza di anni, quale bilancio dai dell'esperienza universitaria in Italia? Sono convinto che il nostro sistema universitario liceale fornisca un'ampia e solida cultura generale. Della tesi di laurea, un altro episodio che ti convince ad andartene dal paese, fondamentalmente. Prima di tutto, qual era l'argomento della tua tesi? L'obiettivo della tesi era la valutazione e il perfezionamento della strategia di marketing del ENIT, dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo. In seguito a varie analisi e sondaggi, i risultati emersi provarono che le strategie dell'ENIT, insomma, erano piuttosto anacronistiche. E tu provi in quel momento a contattare l'ENIT, no? A dire: lavoriamo insieme alla tesi, magari vi do qualche consiglio. La risposta? Nessuna risposta, appunto. Ovviamente. Io e la mia relatrice, infatti, guarda, io e la mia relatrice, che era un'esperta a livello internazionale di marketing, avevamo tentato senza successo di contattare in Enit. E infine, nonostante volevamo offrire consulenza gratis, nemmeno ti rispondo, insomma. Mattias, non è che questa chiusura all'esterno dei nostri enti e delle nostre istituzioni, questo tagliar fuori gli outsider, alla fine forse anche all'origine in realtà del nostro declino? Da un punto di vista turistico, per esempio, cioè direi che non abbiamo mai tentato di dare un'immagine aggiornata dell'Italia, di aggiornare le nostre strategie di comunicazione o del marchio. Siamo rimasti fissati con l'immagine stereotipica della pizza, della pasta, del mandolino. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E a quel punto appunto, come canta Caparezza in Goodbye Malinconia, tu te ne vai. Nel 2006, dopo soli 8 anni di resistenza nella madrepatria, riprendi il volo, questa volta con destinazione Gran Bretagna, per una laurea magistrale. Perché e quale settore scegli? Durante gli anni a Bolzano e l'esperienza di studio in California, sviluppai un forte interesse accademico nell'area dell'economia del consumatore e volevo integrarlo con aree di studi di antropologia culturale. Decisi quindi di andare a St. Andrews, che è un'università con reputazione mondiale per la qualità di ricerca nelle aree disciplinari menzionate. E qui arriva poi un classico di voi espatriati. Prima di finire la laurea magistrale inviai molti curricula anche in Italia, oltre che in Gran Bretagna e altri paesi europei. Provate a indovinare, nessuna risposta dal bel paese. Neppure un no grazie. Penso che il mercato lavoro in generale sia purtroppo spesso caratterizzato da gerontocrazia e raccomandati. Direi che, guarda, anche spesso guardando sul sito di LinkedIn do un'occhiata a persone che lavorano presso aziende a cui io ero interessato, a cui io avevo inviato dei CV, e purtroppo noti che spesso questi non hanno nient'altro che stage in Italia, parlano magari solo italiano e inglese. E chissà come ci sono arrivati. Quindi qualcosa di sbagliato forse c'è. Alla fine tu vieni assunto da General Electric a Londra, ancora prima di finire la laurea. E di cosa ti sei occupato? Io lavoravo presso la G Capital, che è il braccio finanziario della General Electric. Coordinavo insieme ad altri colleghi le strategie del marchio a livello europeo. Per riassumere, nel 2009, purtroppo sotto i colpi di una crisi devastante, General Electric riorganizza la sua struttura e tu resti senza lavoro. Qui però la sorpresa. Un tuo collega ti parla di un'opportunità in Cina, mandi il curriculum a Shanghai. E quanto tempo ci hai messo per fissare il colloquio selettivo? Mi hanno risposto nel giro di 24 ore. In Italia neanche ti rispondevano, in Cina neanche 24 ore per fissarti un colloquio. Nel luglio del 2009, pochi mesi dopo la fine dell'avventura inglese, inizi a lavorare come marketing manager a Shanghai. Spiegaci meglio in quale settore lavori e di cosa ti occupi ora? Io lavoro per Five Consortium International, che è un'azienda di Hong Kong quotata in borsa, attiva nel settore immobiliare da alberghiero in Cina, Giappone, Singapore e Malesia. Mi occupo di marketing globale per il settore alberghiero. Mattia, sta domanda dritto, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? È seduta comodamente nella sua poltrona, orgogliosa del proprio passato. Per cambiare questa situazione avrebbe bisogno di un cambio generazionale. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Mattias Lorieri, trentenne marketing manager per Far East Consortium International, azienda attiva nel settore immobiliare ed alberghiero in Estremo Oriente. Mattias vi è arrivato dopo un'infanzia in Germania, un rientro in Italia macchiato dal mancato riconoscimento di parte del corso di studi svolto fuori dal paese, e un riespatrio dopo la laurea in economia a Bolzano. Prima un lavoro presso General Electric a Londra, poi con l'avvento della crisi licenziamento. Mattias però non si rassegna e invia il curriculum in Cina, dove nel giro di neppure un giorno ottiene un colloquio di lavoro, poi l'assunzione. E ci raggiunge ora in linea Stefania Velke, direttore marketing di Guangdong Kito Ceramics e general manager di Desideri Events. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Stefania, la tua storia professionale è strettamente legata a quella di tuo marito Andrea, inizia con una considerazione. In Italia eravamo due laureati come tanti e, come ci dicevano i colloqui di lavoro, troppo giovani e con troppa esperienza, quindi costosi. In Cina invece? In Cina bisogna dire, come ha detto Mattias, che è tutto basato sulla meritocrazia, quindi se sei in gamba, hai lo spazio giusto, ti metti alla prova e riesci a raggiungere gli obiettivi di carriera che ti sei prefissato in pochissimo tempo. Mentre in Italia sembra che la combinazione appunto di troppo giovani con troppa esperienza proprio non funzioni. In Cina è completamente l'opposto. Forse siamo sbagliati noi. Parliamo della vostra storia ora. Tu sei laureata in lingue e letterature straniere a Bologna. A un certo punto con tuo marito fai intorno ai 30 anni la scelta della vita. Prendi armi e bagagli, vi trasferite in Cina, così all'avventura. E come si è poi evoluta la vostra carriera? C'è da dire che io ero stata in Cina nel 2002 per motivi di studio, quindi Shanghai un po' la conoscevo, però abbiamo lasciato i nostri lavori, abbiamo affittato una casa in internet, così allo sbaraglio, e siamo arrivati. Poi in Cina, per fortuna, ci sono tante persone, ci si fanno tante conoscenze ogni giorno, sulla terra delle opportunità, quindi abbiamo trovato i contatti giusti. Poi abbiamo iniziato a lavorare come consulenti per una società di interior design cinese, e da lì in una fiera a Shanghai abbiamo conosciuto i nostri datori di lavoro italiani che dovevano aprire una joint venture appunto con questa società cinese. Hanno fatto tante tra virgolette chiacchiere, però poi con la crisi anche loro hanno deciso di ritirare gli investimenti. Fortunatamente però in quei due anni di lavoro l'azienda cinese aveva visto come lavoravamo io e Andrea e c'era dato l'opportunità di continuare a lavorare, di rimanere in Cina prima, poi dalla Cina ci hanno rimandato in Europa per aprire il mercato per loro qui. E poi arriveremo anche alla finale della storia, però la cosa importante, tu sei direttore marketing per questa azienda e andiamo al punto, no? Quali opportunità possono esserci per dei giovani italiani esperti di marketing in Estremo Oriente? Sicuramente il marketing cinese è decisamente più debole rispetto al nostro. spesso viene messo da parte per dare spazio al commercio vero e proprio, per questo che spesso si rivolgono a società specializzate oppure a personale occidentale per innalzare un po' l'immagine dell'azienda. Bisogna dire che per i giovani esperti in marketing devono avere tanta pazienza, seguire passo per passo le aziende cinesi e non dare mai nulla per scontato. La nostra avventura, dicevamo, non finisce qui, perché con tuo marito avete aperto una società di eventi in Cina e voi ora in autunno tornerete in Cina. Tra l'altro tu ti dedicherai principalmente, se non esclusivamente, a questa avventura imprenditoriale. Allora, secondo te, Stefania, il clima economico cinese invoglia maggiormente a mettersi in gioco e a rischiare rispetto all'Italia? Sicuramente sì, anche se c'è da dire che in 7 anni di Cina di imprenditori che sono arrivati e hanno battuto la testa ce ne sono tanti, tanti, quindi bisogna conoscere il mercato, perché è un mercato frenetico e anche pericoloso per gli avventurieri. Bisogna appunto approcciare la Cina con qualcuno che conosce la Cina, perché altrimenti si rischia di fare una brutta fine. Un'ultima cosa, tu e tuo marito siete poco più che trentenni, da oltre 5 anni ricoprite ruoli manageriali, allora quanto è distante l'universo Cina nella promozione dei giovani rispetto a questa Italia di vecchietti raccomandati, per dirla con Mattias? È molto distante, decisamente distante. Purtroppo in Italia siamo un paese dove contano più magari le conoscenze che la competenza, e mentre in Cina, se sei una persona che dimostra di valere, fai la tua strada senza nessun problema. Grazie a Stefania Velke. E ora domanda di rito per Mattias Lorieri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Consiglierei a chi sta pensando a un espatrio di andarsene al più presto dall'Italia, di individuare quali sono poi i paesi più adeguati per crescere professionalmente, di dedicarsi a capire la cultura locale della destinazione scelta. Penso proprio che questa sia l'unica soluzione, insomma, di lasciare alle spalle la gerontocrazia e l'interesse verso i giovani, e dà poi la possibilità ai nostri giovani di garantire, almeno fuori dal nostro paese, un'immagine di un popolo che è ancora sinonimo di creatività ed eccellenza. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta sui programmi regionali per favorire gli interscambi con l'estero ed evitare la fuga dei cervelli. Andiamo in Valle d'Aosta per parlare di un programma regionale europeo cui prende parte, unica in Italia, la regione alpina. Michele Monteleone è responsabile del progetto Eurodisse. Il programma Eurodisse si basa sul concetto di reciprocità tra le regioni, è nato nell'85. I giovani valdostani che escono devono possedere un minimo di competenze, diciamo, da poter spendere, o acquisite attraverso la scuola, l'università, oppure dei corsi di formazione con cui hanno acquisito competenze o qualifiche, per poterli spendere in un contesto lavorativo. Quindi la particolarità è che non sono stage, diciamo, alla Erasmus o al progetto Leonardo, dove si va a studiare, ma si va proprio a lavorare. Quindi l'investimento che la regione fa è di finanziare i giovani che arrivano, quindi abbiamo le altre regioni che finanziano i nostri, ma i giovani ritornano, e ritornano portando anche, diciamo, dei modelli culturali di impresa che arricchiscono le imprese del contesto valdostano. Quanti giovani avete coinvolto nel programma Eurodisse negli ultimi anni e con quante regioni europee? Negli ultimi 2 anni i giovani che sono usciti dalla Valle d'Aosta sono 25, ne abbiamo accolti una ventina delle altre regioni. I numeri ci confortano, nel senso che tutti i ragazzi che sono rientrati hanno trovato poi occupazione, addirittura qualcuno si è fermato all'estero, perché il programma ha prodotto anche un incentivo a rimettersi in gioco nello studio, a completare delle carriere universitarie. Oltre ad Eurodisse avete altri programmi in qualche modo che facilitano la formazione dei giovani valdostani all'estero per un rientro anche in regione? Sì, abbiamo un programma che noi abbiamo chiamato Crescere con la ricerca, che ha diverse finalità, diciamo. Da una parte investe sui giovani e quindi dà un sostegno. Abbiamo creato un programma ad hoc, che adesso siamo in fase di revisione e miglioramento continuo, in cui eroghiamo, in questo caso ai ragazzi direttamente, delle borse di ricerca per attività che possono svolgere in regione, nel contesto italiano o all'estero. Normalmente, diciamo, la stragrande maggioranza rientra, perché poi sono veramente appetibili per le aziende. Anche qui, a livello di numeri, quanti giovani hanno preso parte finora a questi programmi? Qui siamo decisamente più alti. Il primo anno abbiamo finanziato, tra direttamente ai giovani o alle imprese, una 60 di borse di ricerca. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.eurodisse.eu.